Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono ancora sconosciute le cause del delitto che ha coinvolto un'anziana coppia, Paolo Burgato e Rosetta Sostero, di 69 e 66 anni. Filomena Felaco, 72 anni, trovata morta nella sua casa a Rione Donguanella di Napoli. È ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata a causa di un'emorragia cerebrale. Il pensionato di 73 anni, picchiato mentre tentava di difendere la propria bicicletta, che alla fine gli è stata comunque portata via. La vittima, una signora di 67 anni, stava uscendo dalla sua casa nel quartiere Barona, quando ancora sull'androne del palazzo è stata trafitta a più riprese da una serie di coltellate alla schiena. Giacomo, 78 anni, in condizioni... Erano i tempi che gli uomini di oltre 40 anni ci pensavano due volte a mostrarsi in giro nelle ore fonde della notte. Oltre 40 anni si era vecchi, e per i vecchi le generazioni nuove avevano un totale disprezzo, un risentimento cupo eccitava i nipoti verso i nonni, i figli verso i padri. Di più, si erano formate delle specie di club, di compagnie, di sette dominate da un odio selvaggio verso gli anziani, come se questi fossero responsabili delle loro scontentezze, malinconie, delusioni, infelicità, così tipiche da che il mondo è mondo della giovinezza. E di notte queste masnade si scatenavano, soprattutto in periferia, alla caccia di vecchi. Se riuscivano a guantarne uno, lo tempestavano di botte, lo denudavano, lo frustavano, lo imbrattavano di vernice, per poi lasciarlo legato a un albero o al lampione. In certi casi, nella frenesia del brutale rito, andavano più là e all'alba, sconvolti e deturpati i cadaveri, venivano trovati in mezzo alla strada. Ho messo assieme delle notizie di cronaca che ho collazionato in questi giorni, culminate in una sorta di allarme che viene dalla città di Bologna, dove c'è un preoccupante incremento di violenze fisiche verso i vecchi. Bologna è la città per eccellenza che ha scaturito il termine umarelle. Non è una trasmissione ridicola, ironica questa di questa mattina, trasmissione seria. L'umarelle è una categoria antropologica definita da un osservatore della realtà bolognese, Danilo Maso Masotti. È il tipico pensionato, l'anziano, colui che ormai è margine della società, ma comunque un ruolo attivo nella società. Mantiene i figli, tiene i nipoti, tiene d'occhio i cantieri nelle strade. Beh, Bologna, che è la città su cui tanto abbiamo scherzato, abbiamo motteggiato, fatto facezie, è centro di una preoccupante attenzione negativa nei confronti dei vecchi. Quindi, se il luogo simbolico della senescenza del nostro paese è cominciato ad essere attaccato in maniera cruenta e violenta nei confronti dei vecchi, evidentemente questo racconto, di cui vi ho letto soltanto una prima parte, di Dino Buzzati, scritto nel 62, comincia ad essere una strana profezia. I cacciatori di vecchi, un racconto che Buzzati pubblicò prima su Corriere della Sera nel 62, poi in varie raccolte di suoi racconti. Io ho pubblicato oggi nel frontespizio del mio profilo Facebook una dedica del 17 agosto 1966. Io avevo 10 anni, i miei nonni mi regalarono il Colombro, una raccolta di racconti di Dino Buzzati, in cui c'era appunto Cacciatori di vecchi. Mia nonna, che avevo 10 anni, me lo leggeva, non riusciva mai ad andare in fondo perché aveva la voce rotta dal pianto. Invece mi divertivo molto a leggere questo racconto in cui si era vecchia a 40 anni. Io avevo 10 anni, figuriamoci. 40 anni era l'età di mia nonna, mi sembrava decrepita, mi sembrava. E non vedevo l'ora di essere anch'io fra questi giovani scatenati che andavano in giro per le strade a cacciare vecchi. La cosa drammatica che leggo oggi, a distanza di parecchi anni, che il protagonista di questo breve racconto, Roberto Saggini, amministratore di una piccola cartiera, aveva 46 anni e i capelli grigi. Comincia con il racconto di questo signore che si ferma a un distributore di sigarette di notte con una bella ragazza in macchina e sente le urla dei cacciatori di vecchi che arrivano. I cacciatori di vecchi hanno questi giovani scatenati che andano in giro per le città, capitanati da uno cattivissimo, la testa rasata, Sergio Regora, che aveva una grossa R sulla sua maglietta. Andavo di notte a cercare i vecchi, a cacciare i vecchi. Lo sport del giorno era cacciare i vecchi. Ma perché questo? Lo spiega Buzzati in maniera molto lucida. Il problema dei giovani. Questo eterno cruccio che nei millenni della storia era stato digerito senza scosse di padre in figlio, finalmente esplodeva. I giornali, la radio, la televisione, i film gli avevano dato corda. I giovani vennero blanditi, commiserati, adulati, esaltati, incoraggiati a imporsi nel mondo con qualsiasi mezzo. I vecchi stessi, impauriti da questo vasto moto degli animi, vi partecipavano per crearsi un alibi, per far sapere, ma tanto era inutile, che loro avevano sì 50 o 60 anni, ma il loro spirito era ancora fresco. Loro condividevano le aspirazioni, i travagli delle nuove reclute, illusi. Parlassero in un modo o nell'altro, i giovani erano contro, i giovani sentivano i padroni del mondo, i giovani, come era giusto, pretendevano la signoria finora tenuta dai patriarchi. L'età è una colpa, era il loro slogan. L'età è una colpa. È facile dirlo adesso che sono vecchio, potevo dirlo 30 anni fa, 40 anni fa, essere anch'io magnanimo, essere anch'io comprensivo delle persone anziane con le tempie grigie che mi davano consigli, dei padri, dei nonni, dei patriarchi. No, invece lo dico adesso, lo dico nel momento in cui osservo che in realtà sembra che il mondo, nel nostro paese perlomeno, sia in lutto, in cruccio, perché un vecchio di fronte alla televisione dice abbandono, lascio, vado in pensione, un vecchio con capelli tinti, un vecchio che tutti invidiano, un vecchio che hanno lungamente osteggiato, un vecchio per cui scenderebbero in piazza bande di giovani. Perché? Perché si accompagna a giovani donne. Un momento in cui veramente sembra che la nota distintiva che tutti i vecchi proclamano, che tutti i vecchi fanno loro, che tutti i vecchi impugnano, è proprio quello: largo ai giovani, fate largo ai giovani. 800240024, cosa succede? Fate largo ai giovani per scalzare una classe politica, una classe dominante, una classe che ha le leve dell'economia e della felicità, fatta oggettivamente di vecchi. Ma chi ne fa le spese? Le spese ne fanno i vecchi per strada, quelli indifesi, i veri vecchi, quelli che non hanno giovani ninfe che li blandiscono e che fanno loro pompettamenti illeciti, e quelli che non hanno soldi, quelli che non si possono liftare, che non si possono rifare, non si possono abbronzare, non hanno panfili, non hanno barche, non stanno protetti, non hanno scorte, quelli che vanno per strada da soli con le mani dietro la schiena guardando i cantieri ogni giorno. Il meccanismo della truffa è sempre lo stesso: affabilità, cortesia e ottima capacità dialettica. Gli anziani finiscono nella rete dei truffatori che riescono a raggirarli con estrema facilità. Spesso basta fare il nome dei figli, parlare di debiti da saldare o millantare un rapporto di amicizia per farsi consegnare somme di denaro anche importanti. Come truffatori senza scrupoli riescono a sfilare anelli, braccialetti, orologi dai polsi, soprattutto degli anziani, con alcuni trucchetti, facendo provare ad esempio una crema per le mani. Oggi parliamo di un'altra truffa, la truffa dell'anello. Andiamo nei particolari. 800240024. Questa mattina vi chiedo testimonianze. A te voi testimonianza, si sta avverando la profezia di Dino Buzzati dell'anno 1962. Eravamo in pieno boom economico, sembrava che non ci fosse possibilità di tristezza e di mestizia per nessuna categoria nel nostro paese, ma lui già profetizzò che sarebbe stata la caccia al vecchio. Avete voi prove di caccia al vecchio? Sapete di anziani turlupinati, bastonati, rapinati, maltrattati? Beh, questa mattina è proprio l'ora di fare un'operazione totalmente controcorrente: la difesa del vecchio. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Ciao. Questa mattina cerchiamo di essere seri. Tu hai lanciato un allarme, l'ho visto ieri sera su Facebook, quindi l'idea me l'hai data tu. Cosa sta accadendo a Bologna, che è la città laboratorio, in cui in realtà c'è l'immagine, la fotografia più calzante di quella che è la senescenza del nostro paese? Allora, Bologna è una città vecchia, piena di vecchi. Vecchi attivi, vecchi che fanno... non fanno finta di niente, nel senso che continuano a fare la loro vita, però in realtà sono categorizzati dalle istituzioni come anziani fragili, quindi persone che vanno in giro, fanno le loro attività, ad esempio vanno in banca, vanno a prelevare del contante e quindi qua ad esempio vengono immediatamente colpiti e derubati, ad esempio. Poi ci sono le altre cose che sono già state dette sul discorso della... Ovviamente il vero Umarell è diffidente, però se qualcuno gli va a bussare alla porta usando delle parole chiave tipo assistente sociale, nome del figlio, INPS, Enel, queste parole qua, l'anziano si fida e si porta il carnefice in casa. Ecco, da questi giorni la stampa locale di Bologna sta proprio denunciando, adesso con l'enfasi che molte volte è tipica degli organi locali capillari di stampa, aggressione Anzani. Ormai a Bologna è il trend di un caso al giorno, neanche 24 ore tra un caso e l'altro. Da oltre una settimana i numeri non fanno che moltiplicarsi e cresce la paura tra gli anziani. Ecco, cosa sta accadendo a Bologna? Io immagino di vedere gli umarel bolognesi che guardano i giornali appesi ai muri nelle bacchechine e commentano: cominciamo a stare attenti, un po' come l'avvertimento che faceva agli anziani di Nobuzzati. Faccio una parentesi, mi stanno già arrivando sms totalmente fuori luogo, idioti, scrive un ascoltatore: premetto che ho 53 anni, quindi ne hai 5 meno di me, quindi che vuoi? E a detta di tutti non li dimostro. E beato te, perché uso un termine così volgare, vecchio? Perché il racconto di Buzzati è cacciatori di vecchi, stiamo parlando di vecchi, le piazze d'Italia stanno infiammando per un signor riccioluto che dice basta via i vecchi, a Bologna stanno massacrando i vecchi e parliamo quindi di vecchi. Danilo. È interessante questa escalation di violenza, perché comunque segnala una cosa, un messaggio molto importante, ovvero gli umarel che non fanno gruppo soccombono, sono a rischio, insomma, questo è il dato. Quindi non trovi che gli umarel che fanno gruppo, cioè se sei un giovane di quelli di Buzzati, cioè prendi le botte tu. Senti una cosa, Danilo, ma chi sono gli aggressori? Allora, mi sembra aver capito che, in fondo, in questa totale desolazione, sì, in parte reale, in parte anche molto amplificata, chi va in giro come un lupo in cerca di selvaggina, di raggranellare la giornata, in fondo capisce che l'obiettivo più vicino e più facilmente estirpabile è proprio l'anziano che prende la pensione, è gli anziani che vivono soli nella casa, anche ammesso che fosse la villa che hanno costruito con i sacrifici di una vita, con il lavoro di una vita. Quindi è molto più facile a questo punto indivanarsi e prendersela con i vecchi della politica, lecitamente, giustamente, condivisibile, ma realmente, concretamente, andare a raggranellare i quattro soldi dei vecchi che vanno in giro per strada. Qua a Bologna, ti dico dal mio osservatorio privilegiato, è tornata molto in voga la tossicodipendenza. Però c'è una nuova tipologia di tossicodipendenza, tossicodipendenti di altre nazioni che utilizzano dei codici anche di violenza che per il tossicodipendente invece italiano sono anche un po' desueti. Cioè hanno la spregiudicatezza di prenderla con il vecchietto che sanno che comunque il necessario per una botta ce l'ha in tasca, quindi non c'è problema. Per dirti, io qua c'ho nel mio condominio dove sono tutti umarel, faccio dell'aiuto, degli aiuti umanitari a chilometro zero, cioè aiuto una signora a portare su una spesa pesantissima al terzo piano senza ascensore. Questa signora, se io volessi, cioè le rubo 70 euro. Li porti via tutto quello che giorno, cioè nel senso. Cioè anche perché se li porterà come tutti gli anziani, cuciti addosso, infilati nelle mutande, non ha nessun tipo. E poi, rinuncia alla carta di credito o al bancomat. Gli anziani rinunciano a queste fermiamoci un attimo, Danilo, sentiamo, arrivano le prime testimonianze. Abbiamo chiesto testimonianze, chiamate all'800240024 per darci prove concrete che è iniziata la caccia al vecchio che profetizzava Buzzati nel 1962. Ernesto. Sì, buongiorno. La sua testimonianza. La mia testimonianza è questa: io ho 79 anni, no? Quindi vecchio a tutti gli effetti, vero? Non quelli finti. Prego? No, a tutti gli effetti si considera, come anche io, nella categoria dei vecchi. Lo siamo. Senta una cosa. Niente, qui capita... Ah, non ci sento. Io sono a Milano, no? Sono in Milano. Lo scherzo dello specchietto, poi le chiedono dei soldi, si avvicina alla macchina, dice che gli ho dato lo specchietto, eccetera, e vogliono immediatamente dei soldi, no? Sì, è successo anche a me, ma ho subito preso il blocca sterzo in mano e si sono dissolti. Anch'io ce l'ho, certo. E quindi? Niente. Allora ho fatto un'indagine qui nel mio quartiere, io abito a Porta Ticinese, no? E ho notato da questa piccola indagine che lo fanno sempre a persone anziane con capelli bianchi o alle donne sempre anziane. Quindi funziona così, aspetta, fermi un attimo, lo dico. Senti una botta fortissima, in realtà ti tirano qualcosa contro la macchina. Ti si avvicinano giovinastri facendoti vedere lo specchietto della macchina rotto, con affare molto aggressivo. Me l'ha rotto, adesso come faccio? Così dammi subito 70 euro, 50 euro, chiudiamola qui, se no l'assicurazione è tutto. Sono molto minacciosi, l'ho visto. Avendo io i capelli grigi, logicamente ci hanno provato anche con me, ma sono in corsi male. Il povero vecchio, la povera signora anziana tira fuori i soldi, glieli dà e questi se ne vanno, finisce così. Grazie Ernesto, prima segnalazione. Giancarlo. Buongiorno. Segnali. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Proprio questa settimana è successo, io ho 51 anni, mio padre ne ha 77, è successo mio padre, che abita nella periferia nord di Milano, di uscire di casa per buttare la pattumiera e sulle scale è stato intercettato da una signora straniera dicendo: ah, mi scusi, proprio lei cercavo, ha una matita da prestarmi. Mio padre, che già conosceva questi giochi, ha detto: no, io non c'ho niente. Ha proseguito il suo percorso per rincasare, la signora gli è andata dietro, lui si è girato in mano a mano dicendo: ma dove sta andando? Lei, dai, entriamo che facciamo l'amore. Lui ha risposto garbatamente che non si faceva nulla, ha proseguito, appena ha superato la soglia, lei ha tentato di entrare in casa. Lui l'ha schiacciata in mezzo alla porta, poi l'ha buttata contro il muro e l'ha cacciata via in malo modo. Grazie a Dio che ci sono, diciamo, anziani che anche il protagonista del racconto di Buzzati tenta una reazione, darà un pugno nel mento al primo aggressore e cercherà in un certo senso salvare la pelle. Quindi questa è una seconda segnalazione. Chiara, buongiorno Chiara. Pronto, buongiorno signor Nicoletti e complimenti per questa trasmissione. Io l'ascolto sempre molto volentieri. Lei è una vecchia signora? Io ho 51 anni, non sì. Sono giovane. No, per Buzzati era già vecchia, dopo i 40 anni si è vecchia. Allora diciamo che adesso sono saggia, ma sono saggia perché le dico, ho vissuto la gioventù con la mia nonnona, la mamma di mia madre che adesso ha 81 anni, ed era una vecchia incredibile mia nonna. Era un economista, anche se non era laureata alla Bocconi, ma la sua economia era data dall'intelligenza della sua esperienza. Sì, ma mi dica esempi di maltrattamento. Allora, maltrattamento invece le dico, ho vissuto diciamo 15 anni, quindi non tanto tempo fa, tutto il declino fisico. Il Segala Vecchia non poteva mancare nella trasmissione legata ai vecchi. Voglio fatti concreti, reali, denunce, non discussioni filosofiche. Emilio, buongiorno. Porti la testimonianza. Buongiorno, io racconto quello che succede ai miei genitori che hanno 92 anni. Questo voglio sapere, questo voglio sapere. Evidentemente circolano delle anagrafi di vecchi che vengono presi di mira anche per telefono, le aggressioni telefoniche dei vecchi, dove lì davvero sono soli, sono infinite, ricevono in continuazione, stando a casa loro io ricevo anche 5-6 telefonate al giorno, delle offerte più mirabolanti. Faccia esempi. Ma i nomi sono quelli, sono i Vodafone, i Wind. Offerte telefoniche ad anziani che non sanno nemmeno la differenza fra il telefono fisso e il telefono mobile. Esatto, e basta che dicano sì, come è successo, e si trovano vincolati a un contratto di cui loro non si rendono conto. Ieri c'erano due ragazzini nella metropolitana. Uno parlava del nonno che aveva un modello di iPhone abbastanza avanzato, ci potesse schiattare sto vecchio, ce l'ha e non lo sa usare, mi viene a me tutte le mattine a chiedermi come si fa a spegnere la sveglia, e l'altro dice: ma non schiatta mai tu nonno, per potersi ereditare l'iPhone del nonno. A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Melog, la realtà condivisa. 10 consigli della polizia locale contro le truffe agli anziani. 1. Non aprite la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. 2. Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. 3. Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. 4. Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni, anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili. 5. Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare. 800 24 00 24, questa mattina diamo spazio alle vessazioni, le turpitudini, le truffe, le violenze che subiscono i vecchi. È vero, siamo tutti d'accordo, siamo con il cuore aperto, siamo con il nuovo che avanza, siamo con chi vuole svecchiare, mandare via, pulire il gerontocomio che è il nostro Parlamento, però osservate, considerate che questa sorta di impeto giovanilistico che nasce comunque da persone che hanno sempre sopra 50 anni, ha una sua ricaduta emotiva, non voglio dire ci siano a caso effetto, ma sicuramente c'è nell'aria una sorta di giustificazione, che i vecchi sono maledetti, vedo che poi mi scrivono, i vecchi spacciano. I vecchi vanno con le ragazze giovani, i vecchi con il sussidio dello Stato poi vanno a puttane, mi stanno scrivendo cose terribili. Significa che in realtà una reverenza e giusta attenzione verso i capelli bianchi, un rispetto verso i capelli bianchi, si è inquinato dallo strapotere, dall'uso sproporzionato e smodato che hanno fatto del potere e della faccia tosta i vecchi ci hanno sempre comandato. E quindi questa mattina diamo spazio ai poveri vecchietti che in realtà subiscono, dando a loro qualche utile istruzione con questo decalogo di attenzione a quelli che sono i rischi che corrono ogni giorno dei loro ultimi pallidi giorni. 6. Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all'interno della banca o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada, entrate in un negozio o cercate un operatore di polizia, ovvero una compagnia sicura. 7. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. 8. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato. 9. Quando utilizzate il bancomat, usate prudenza. 10. Per qualunque problema e per chiarirvi qualsiasi dubbio, non esitate a chiamare la polizia locale, il 113 o il 112. Saremo felici di aiutarvi. 800 24 00 24, voglio segnalazioni, denunce e conferme di quello che stiamo questa mattina ipotizzando. Enrico. Ah, buongiorno Nicoletti, sono Enrico da Modena, la seguo sempre ben volentieri la sua trasmissione. Finché ancora avrà fiato per farlo, quanti anni ha? No, 75. Siamo lì, agli sgoccioli. Allora, no, io no, li porto bene, sono atletico, vado a giocare a tennis. Questa è un'illusione, noi tutti pensiamo. Io fino a questa mattina pensavo anch'io di essere arzillo, poi ho riletto il racconto di Buzzati e non conta nulla. Lo so, ho qualche vuoto di memoria ogni tanto che mi capita. È la tipica botta di rincoglionimento, prende. Allora, andiamo al punto, cosa è successo? No, il punto mi è successo 2 anni fa, in piena estate, andavo a giocare a tennis in bicicletta, calzoni corti, con la mia racchetta, il mio borsone, mi si affianca una macchina in una stradina abbastanza poco frequentata, scende una bellissima ragazza e mi chiede, ma è qui che si va a prendere l'autostrada per andare a Milano del Sole? Io sì, mi sono fermato, lei è scesa, questa bella biondona con occhi seducenti, mi ha detto, ma tu sei Federico, ti conosco, ma io sono rimasto lì così, ma no, io mi chiamo Enrico. Lei in un attimo mi ha palpato, mi ha detto dai andiamo a fare l'amore qua e là, io sono rimasto impietrito. Allora, il portafoglio dietro, il portafoglio dove lo tiene, i calzoni, in un attimo mi ha sfilato il portafogli, è salito in macchina, io gli ho preso il polso, mi è scappato, hanno sgommato e dopo 100 metri c'era il mio portafoglio aperto, mi mancava 100 euro e poi sono andato dal carabiniere e mi ha detto signor Magnanini, lei, io mi chiamo Magnanini, ha fatto bene non metterci le mani addosso perché altrimenti scendevano dalle macchine quello che guidava e si trovava magari con una coltellata. Io ho subito nella mia vita solo quella violenza lì. Diciamo che, scusi, ma signor Magnanini, visto che ormai l'ha detto, quindi noi voglio solo segnalazioni concrete, pratiche, non voglio fare discussioni. Quindi una delle situazioni in cui potrebbe incorrere l'anziano ancora gagliardo come lei tutto, una giovane bellissima che si avvicina, le mette le mani addosso, dice vogliamo fare l'amore, ma la palpata in realtà non è finalizzata all'intima d'azione ma all'intima sottrazione. Attenzione, non mettete soprattutto i soldi della pensione vicino alle parti intime, sennò è ancora più facile equivocare. Sandra. Sì, buongiorno, anch'io io ho 70 anni, E anch'io sono stata vittima della truffa con la macchina, il grande botto che mi ha fatto sobbalzare e poi il malfattore che aveva accanto a sé una donna molto innocua, perché era questo lui, questa persona, che mi diceva se mi volevo accomodare a da qualche parte, perché gli avevo rotto lo specchietto, questo botto. Però io, che in un attimo però mi sono ripresa, ho detto sì, io mi fermo volentieri, però davanti ai carabinieri, guardi che sono qui vicini. A questo mio invito, naturalmente se la sono data a gambe con la macchina, ma questa era una delle truffe che era molto in voga qualche anno fa. No, ma è tuttora in voga, ce lo stanno segnalando in tanti. Ma una cosa molto più sofisticata, cioè naturalmente io durante il giorno sono stata molto scossa, perché ho reagito bene lì per lì, ma dopo io insomma, ne dica un'altra, se ne ha un'altra dica un'altra, non sì, mi interessa. Sì, un'altra terribile, una mia amica che era ancora più grande di me, che viene avvicinata per la strada da due persone bellissime, maschi e femmina, con la macchina molto prestigiosa, l'autista, che dicevano che erano parenti della famosa casa di cioccolato. Dice: signora, noi cerchiamo un medico che dobbiamo ringraziare perché ha salvato la vita. Insomma, praticamente l'hanno così, non abbindolata, l'hanno proprio ipnotizzata. E questa mia amica se li è portata in casa ed ha consegnato lei volontariamente la pelliccia, i gioielli che aveva di famiglia, perché in passato era molto... Cioè gli hanno svuotato casa. Le hanno portato via gioielli, cose che naturalmente la gente non vedeva né si accorgeva, perché questa sale con due persone a casa sua e le hanno portato via soldi e tutti... Fermiamoci un attimo, abbiamo qualcuno che forse può aiutarci. Alessandro Marchetti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Alessandro Marchetti è presidente dell'ANASPOL, l'Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali delle Polizie Locali. Ha tenuto un corso antitruffa agli anziani del Lazio. Di quello che ha sentito, c'è qualcosa che già rientra nel quadro delle truffe che si fanno agli anziani, che lei già ben conosce? Sì, certamente sì. L'ultimo caso, quello in cui viene fermato da due persone distinte, la persona anziana, devo ringraziare un medico, purtroppo non lo trovo, devo fare l'ascito dal notaio, adesso dobbiamo andare al notaio, però 2000 euro, in quel mentre passa un'altra persona distinta e fa: ah beh, questo allora glielo prendo, faccio io, ma no, guardi, dobbiamo fare questo lascito, guardi, se non trovo il notaio, io questo lascito devo proprio fare, glielo faccio a lei e poi lei lo consegna al notaio, perché come faccio? Quella persona dice: poi guardi, il 10% di quello è suo, adesso io sto facendo... Cioè una compagnia teatrale vera e propria. Una compagnia, addirittura il diamante, ho questo diamante, devo partire per l'Africa equatoriale e devo consegnarlo, devo per forza venderlo, non so come pagare il biglietto. Tutto avviene nel marciapiede. Mentre passa un gioielliere che, guardi caso, ha l'occhialino da gioielliere in tasca, è tipico del gioielliere, certo, andare in giro chi ha con sempre l'occhialino, che dice: ma questo è d'oro, lo compro io a 15.000 euro, ma io l'avevo promesso alla signora a 3.000, come faccio? La signora, guardi, mi dia 3.000 euro ed è suo, quella bocca, i soldi, però dobbiamo fare l'atto dal notaio, prendi i soldi, tutto quanto, prendono un tassì, adesso ci vorrebbe la marca da bollo, signora, guardi, c'è il tabaccaio, la prenda lei, perché sa, io adesso non ho quei spicci, quella scende e il tassì parte. Perfetto, e questo diciamo a Roma accade spesso in tutta Italia, persino al sud Italia, dove magari Palermo, Bari, Milano, Napoli, Torino, succede dappertutto. Allora, diciamo, signor Marchetti, guardi, fermiamoci un istante, noi diamo la linea velocemente al traffico, perché ci interessa che lei nell'ultima parte della trasmissione ci elenchi altri episodi di maltrattamenti, di truffa, di turlupinazione, di sgrassamento dei poveri anziani. Melog, la realtà condivisa. Scippi e borseggi in strada. Evitare strade isolate e poco illuminate e di portare borse e pacchi pesanti che impediscono di muoversi con facilità. Camminando sul marciapiede, preferire il senso opposto alla marcia dei veicoli e tenersi dalla parte più vicina al muro. Evitare di fare sfoggio di orecchini e altri gioielli vistosi e di portare con sé molto denaro. Se è inevitabile, cercare di non tenere tutto il denaro solo nel portafogli, ma distribuirlo tra borsa, tasche o altro. Uscendo dalla posta o dalla banca, controllare che non ci sia nessuno in attesa e non soffermarsi con chi chiede informazioni. In autobus, utilizzare solo borse che si chiudono bene e tenerle strette a sé, così come quando si è in fila o in posti molto affollati. 800 24 00 24. Cristina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, faccio velocissima, è un racconto che ha dell'incredibile. Praticamente 2 anni fa, io avevo 42 anni e mia nonna 90, sono andata a trovare a casa mia nonna, che è prudentissima, risponde, non risponde manco al telefono, e ho risposto al posto suo a una telefonata. Praticamente la Telecom, un uomo che diceva di essere di un call center della Telecom, mi comunicava che, visto che mia nonna era abbonata al telefono da tantissimi anni, 45, allora le avrebbero tolto il canone Telecom. Era una politica che... È chiaro che era una truffa, non c'entrava nulla la Telecom, è chiaro. Posso continuare? Sì, sì, continui. Praticamente era un modo scorretto di operare di operatori che lavoravano per la Telecom, che la Telecom comunque disconosce. Beh, quindi è una truffa, quindi la Telecom, sì, non è che voglio assolvermi, è chiaro che nessuna azienda può fare politiche del genere. Di una signora, le regaliamo il canone perché sono 40 anni che c'ha il telefono. Era una persona che si muoveva nella totale illegalità. Ma ho detto, al telefono può accadere di tutto, può succedere di tutto, figuriamoci quanto è molto più facile turlupinare un anziano al telefono quando le persone gli entrano in casa in maniera così indiscriminata. E allora come ha finito sua nonna? Niente, ha risposto lei, ha detto non ci interessa. Ho risposto io e invece ho detto di sì. Ha accettato? Allora se è andata a cercare di cosa si lamenta? Allora me la sono andata a cercare e poi così dopo un mese e mezzo le è arrivato un cassone ai telefonini. Cosa le è successo? No, è arrivata la bolletta di Telecom col contratto di Alice. Vabbè, adesso non ho capito. Beh, navigate in internet e vi svegliate così. David Putorti, buongiorno. Sì, buongiorno. Chi è buongiorno, lei? Nicoletti. Un regista. Sì, sono un giovane regista, nel senso sono riuscito a finire il mio primo Quanti film. Anni ha? 45. E niente, lei è vecchio, non vale. Diciamo che ecco, il tema del film, adesso ecco, magari io intervengo un po' tardi in una trasmissione. Beh, velocemente però, per poco tempo. Cosa ha girato un film? Sì, ho girato un film che è l'adattamento di un famosissimo e bellissimo romanzo argentino dal titolo Diario della guerra del maiale, tra l'altro citato proprio da Veltroni la settimana scorsa da Fabio. Questo quando... non è che sia un punto a favore? No, non è tanto il punto a favore. È una condanna a morte per il film, se dice questo. No, dà la misura dell'attualità di un tema, appunto la vostra trasmissione ne è la prova. Sì, ma una cosa quanto... detta da Veltroni a Fazio l'ingrigisce subito e loro... No, ma... mi spiego. Il discorso vada al punto. Di Veltroni è rispetto a questa sensazione che diciamo l'atavica e naturale conflitto tra le generazioni, dove in qualche modo imposta c'è il potere, sì, ispira il romanzo di Bioy Casares, dove in una società che poco a poco invecchia, dove c'è una difficoltà nel ricambio. Vabbè, abbiamo capito, è molto interessante. Guardatevi la puntata di faccia. Alessandro Marchetti, riprendiamo con lei. La capacità della sintesi è una prerogativa dei giovani, chiaramente passando i 40 anni diventa difficile. Alessandro Marchetti ci comincia a dare dei punti concreti e reali, informazioni. Non ci interessa cosa diceva Veltroni da Fazio, ma ci interessa capire quali sono le circostanze di difficoltà in cui potrebbero trovarsi anziani, che lei insegna a difendersi nel suo corso che fa antitruffa. Sì, innanzitutto devono assolutamente non fidarsi del primo che passa. Sembra brutto dirlo, ma è così. Occorre avere una maggiore cautela e usare la massima prevenzione in tutto quello, in tutte le persone che noi di cui non possiamo fidarci perché non perché in realtà non conosciamo. La diffidenza dagli sconosciuti, siano al telefono, siano di faccia. Sembra brutto, ma non accettiamo caramelle dagli sconosciuti, ci dicevano i nostri genitori da bambini. Oggi noi diciamo: non vi fidate di chi vi ferma per strada. Non accettiamo pannoloni dagli sconosciuti. Attenti a non aprire quella porta. Quella porta deve aprirsi solo se siamo certi che dietro quella porta c'è una persona conosciuta o una persona che si può qualificare. Anche, guardi, lo dico per noi polizia locale, carabinieri, quando bussano, chi so, i vigili oppure chi so, i carabinieri, che ci si deve far dire il numero di matricola, il comando di appartenenza, naturalmente se si è da soli in casa, il numero di matricola, il comando di appartenenza, e si deve far sentire che si sta telefonando al comando di appartenenza. Ecco, signor Marchetti, molte volte le persone che vanno porta a porta a vendere contratti truffa, sconti, via dicendo, fanno vedere un fantomatico tesserino. So perché vengono anche da me ogni tanto, mi diverto a farli chiacchiare un po' prima di prenderli a calci nel culo, ma mi fanno vedere un fantomatico tesserino dove non c'è scritto mai nulla. Diffidare anche da questo? Diffidare assolutamente. Il tesserino, l'unico tesserino vero è quello rilasciato da una pubblica amministrazione. Quelli sono tesserini privati, possiamo farli entrambi. È l'abbonamento dell'autobus, magari, cose del quindi, genere. Ecco, esatto. Quindi non è che ci dobbiamo fidare, non mi fai vedere un tesserino ed apro. Mi fai vedere un tesserino, annoto i dati di chi sei e chi dici di rappresentare e mi vado a tutelare immediatamente chiamando, ad esempio, vede, è più facile magari con la polizia locale chiamare il comando di zona. Ma in quel caso si chiama il 113 e gli si dice, c'è un signore che dice di essere un poliziotto alla porta, che devo aprire perché mi deve notificare non so che cosa. Io sono da sola, sono una persona anziana, non lo conosco, non mi posso far assistere da nessuno. È vero che esiste questo tizio, in che comando sta? Potete verificare. Ecco, questo è un elemento importante. Il 113 fornirà il telefono del comando se non lo può girare perché non tutti i comandi probabilmente sono in linea. E in quel caso il 113, il 117, il 112 a seconda del tipo di arma e di corpo. E in quel caso si telefona al comando, ci vuole un po' di pazienza, si telefona al comando e ci si accerta se quello esiste. Anche perché diciamo la verità, che nessuno dell'INPS viene a darvi la pensione a casa, perché è successo anche questo. Ecco, è interessante questo. Siamo dell'INPS, lei deve avere, le sono stati erogati dei soldi in più, si sbrighi a ridarli perché altrimenti le pignorano casa. Ci deve dare 1.000 euro, questa se ha in casa 500, 1.000 euro, li tira fuori e arrivederci ai soldi. All'INPS figuratevi voi, non riesce a dare risposte, non sto naturalmente accusando nessuno, non si riesce come pubblica amministrazione a dare risposte. Figurati se manda gente a casa. Se manda la gente in giro a cercare a casa. Altra ecco, cosa, scusi Marchetti. Normalmente gli agenti di polizia, i vigili, quando vanno a casa per qualche notifica sono in divisa, raramente vanno in borghese, molto difficile. Non le notifiche delle contravvenzioni avvengono in borghese. Ah, in borghese avvengono. Sì, sì, sì. Ecco, e quindi in questo caso comunque prendersi però la briga di... Però sono sempre gli stessi, quindi diventa quasi una... Diciamo che con la polizia locale molto spesso, è chiaro in un grande comune, ma in un comune medio-piccolo le facce sono abbastanza conosciute, no? Quindi a Roma solitamente hanno la stessa zona, anche per questo è stato fatto in modo di dare la stessa zona allo stesso poliziotto locale, perché questo gli consente di conoscere la gente e di essere conosciuto. E spesso ci sono i portieri, quindi poi una persona anziana la multa, bisogna vedere se c'è la macchina, ecco. Ma guardi, addirittura io sono un amico di suo nipote, a me suo nipote mi deve dare un sacco di soldi, io quando lo vedo l'ho visto, no, buono questo, no, canto mille euro, oppure quell'altro, e gli dà, oppure quell'altro gli telefona, guardi, qui c'è suo figlio dentro l'agenzia che vende le macchine, ha bisogno di 500 euro di corsa perché altrimenti non può comprare la macchina, suo nipote, che ho scusa. Questa, veniamo noi con una persona, le mandiamo noi adesso. Signor Marchetti, guardi, la sua enfasi e il suo impeto le fanno onore. La richiameremo perché abbiamo talmente tante telefonate che ci serve un maestro di vita come lei per i nostri anziani vituperati. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie a tutti gli anziani che ci permettono di sopravvivere. A lunedì.